Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti, anche per questo venerdì 10 gennaio, Radio Zanardi, che vede una sentenza importante per la strage di Bologna 2 agosto alla stazione, Cavallini con l'ergastolo, l'ennesimo di questo terrorista del NAR, ma noi subito cominciamo la nostra pagina di Radio Zanardi con Radio Bullet, buon ascolto. Un buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, venerdì 10 gennaio 2020, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie del mondo, oggi dedicato alle notizie che arrivano dall'Africa e dall'Europa. Cominciamo dall'Africa, cominciamo dalla portavoce per l'Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Cécile Pouilly, che ha confermato ieri che sono state aperte delle indagini su un nuovo scandalo che sta coinvolgendo le sedi locali dell'agenzia in Uganda e che riguarda il procedimento di reinsediamento dei rifugiati in Europa. 2 giorni fa il settimanale tedesco Stern ha pubblicato un'intervista a un uomo che sostiene di far parte di una rete formata da funzionari dell'Alto Commissariato e intermediari locali che in Uganda chiede soldi ai rifugiati in cambio dell'agevolazione delle loro pratiche. In sostanza, chi paga in genere una cifra intorno a $2,500 ha la possibilità maggiore di essere scelto per ottenere protezione in un paese europeo. Nel 2019, secondo i dati dell'agenzia, c'erano 1,4 milioni di persone con necessità di reinsediamento, ma solo 55.000 sono state accolte da paesi terzi. 3 anni fa altri funzionari dell'Alto Commissariato in Kenya erano stati indagati per aver chiesto soldi in cambio di aiuti umanitari nei campi profughi. E continuiamo a parlare di reinsediamento, ma andiamo in Sudafrica, dove le autorità di Città del Capo sono decise a intervenire contro i rifugiati che si sono accampati fuori dalla chiesa cristiana metodista in Green Market Square. La chiesa è diventata il loro punto di riferimento dopo che a fine ottobre sono stati sgomberati dal cortile della sede dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, dove da mesi protestavano per chiedere di valutare le loro richieste di reinsediamento in paesi terzi. Mercoledì si sono incontrati esponenti dei rifugiati, funzionari dell'Alto Commissariato e autorità locali. Sull'accordo raggiunto non c'è consenso, in effetti. La rappresentante dei rifugiati dice che il comune si è detto disponibile a fornire un rifugio temporaneo, ma le autorità rispondono che non è affatto allo studio una proposta del genere. Si tratta in ogni caso di fornire uno spazio dove possano essere esaminate in maniera accelere le loro istanze. Escluso comunque da parte dell'Alto Commissariato un reinsediamento di massa. Costa d'Avorio, il Ministero dei Trasporti, si è espresso ieri con un comunicato ufficiale su quello che ha definito incidente, cioè la morte di un ragazzo che tentava di migrare in Europa nascosto nel carrello di un volo Air France. Faremo in modo che tali incidenti non si ripetano più, ha assicurato il Ministero, spiegando anche di aver presentato denuncia contro ignoti per violazione delle norme di sicurezza e delle norme aeroportuali. Secondo il Ministro, ancora non si conosce l'identità del ragazzo, si sa solo che dovrebbe avere circa 17 anni. Mali, 18 caschi blu delle Nazioni Unite, 2 civili sono stati feriti in un attacco a Tessalit quando sono state sparate 15 granate contro la base militare presente nella località. Il portavoce della MINUSMA, la missione ONU, parla di bilancio preliminare. Il campo si trova nella regione di Kidal. Ed è definitivo invece il bilancio di quanto avvenuto in Niger. Con un comunicato letto alla televisione dal suo portavoce, il colonnello Suleimane Gazobi, il Ministero della Difesa nigerino ha confermato la morte di 63 terroristi e di altre 25 persone a seguito di un attacco condotto giovedì contro il posto militare di Shinegodar. Gli assalitori sono arrivati a bordo di auto e moto, a loro hanno risposto, ha spiegato il colonnello, le forze aeree nigerine in collaborazione con i nostri partner, presumibilmente francesi o americani. L'intervento ha spinto i miliziani fuori dalle frontiere. Shinegar si trova infatti a 10 km dal confine con il Mali, nella regione di Tillaberi, dove la settimana scorsa è entrato in vigore un divieto di circolazione in moto, divieto che ieri si è rivelato del tutto inefficace. Uganda, nuovo arresto all'inizio della settimana per l'oppositore Bobi Wine, stavolta con l'accusa di manifestazione non autorizzata e incitamento alla violenza. Con lui sono stati arrestati numerosi suoi collaboratori, ma anche molti giornalisti che stavano seguendo l'evento. Quasi tutti i reporter sono stati rilasciati dopo poche ore, tranne uno di loro trattenuto per 2 giorni nonostante le pressioni del sindacato della stampa. In tema di stampa, in senso negativo, si distingue anche il Malawi, dove mercoledì sono stati arrestati 2 giornalisti e un operatore video che si trovavano all'aeroporto per ricevere una delegazione dell'Unione Europea incaricata di seguire le operazioni post-elettorali. I 3 sono stati rilasciati non prima di essere denunciati per aver causato disordini all'aeroporto. Etiopia è stata votata e approvata ieri dal Parlamento la nuova legge sulle armi, che rende più difficile il loro possesso. Non si potrà avere più di un'arma a disposizione e la loro vendita sarà permessa solo ad agenzie statali. Pene tra i 3 e i 20 anni per chi viola le regole. I colloqui tra Etiopia, Egitto e Sudan nei negoziati per le acque del Nilo si sono conclusi ieri senza alcun avanzamento. I 2 giorni di discussione e confronto ad Addis Abeba hanno fatto registrare poche note positive. Prossimo appuntamento lunedì a Washington, dove gli Stati Uniti e la Banca Mondiale valuteranno i progressi fatti. Angola, 41 morti per le piogge torrenziali. Ieri le autorità hanno stilato il primo bilancio relativo al periodo tra la mezzanotte di domenica e le 4 del pomeriggio di lunedì. Più di 12.000 persone si trovano ora senza casa. Europa, Polonia, l'alleanza Lewica, un insieme di 3 partiti di sinistra, ha candidato alla presidenza polacca Robert Biedron, il più noto politico apertamente omosessuale in Polonia, già sindaco di Słupsk e attuale europarlamentare. Nonostante la nuova formazione politica non goda di sondaggi favorevoli e accreditata al 12%, si valuta che la presidenza di Biedron possa portare gli altri candidati a discutere di temi che sono considerati spesso tabù in Polonia, come il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma anche la separazione rigorosa tra Stato e Chiesa. Francia, nuove manifestazioni ieri nell'ambito delle azioni di sciopero contro la riforma delle pensioni, azioni iniziate il 5 dicembre scorso. Ieri è stata la 4ª mobilitazione interprofessionale con corteo di tutte le centrali sindacali. Enorme la distanza tra le cifre fornite dal Ministero dell'Interno e quelle dei sindacati rispetto ai partecipanti. Per le autorità erano 452.000 in tutta la Francia, per i sindacati 1.200.000 nei 65 cortei che hanno attraversato il paese. Mediamente, salvo rari casi, le prefetture riferiscono di una partecipazione che è il 10% di quanto dato dai sindacati. A Marsiglia 20.000 contro 200.000, a Tolosa 14.000 contro 120.000, a Parigi 56.000 contro 370.000. A Parigi la testa del corteo è stata immediatamente separata dall'arresto da un imponente servizio di polizia. Diversi video mostrano come gli agenti abbiano manganellato a più riprese nel corso della giornata i manifestanti. In serata poi ci sono stati scontri più violenti sempre nella capitale. Nel pomeriggio intanto il governo ha illustrato alla stampa quelli che saranno i punti chiave del testo di legge, che la scorsa settimana è stato infine inviato al Consiglio di Stato e che il 24 gennaio sarà in Consiglio dei Ministri. Restano, secondo i resoconti della stampa, nessuna copia del testo è stata ancora pubblicata, i provvedimenti più contestati come l'innalzamento dell'età pensionabile. Non è il Partito Popolare che caccia il premier ungherese Orban perché è troppo di destra, ma è lui che se ne va perché i popolari europei sono sempre più liberali e centristi. Questo in sostanza è il discorso di Orban ieri, che in una conferenza stampa ha annunciato di pensare alla formazione di un nuovo gruppo politico europeo, da lui definito come nuovo vero movimento democratico cristiano. Il partito di Orban, Fidesz, è stato sospeso lo scorso luglio dal Partito Popolare Europeo in attesa di un rapporto preparato da un consiglio di 3 saggi che deciderà del suo futuro. Orban, nell'evocare una nuova formazione, ha parlato di possibili alleanze con i conservatori polacchi. Austria tornerà a Vienna, Molchiel assina l'insegnante dalla doppia nazionalità austriaca e turca, a cui ieri è stato revocato dal tribunale il divieto di lasciare la Turchia. Per 6 mesi l'insegnante, arrestata per 24 ore a luglio per aver tenuto un discorso il 1 maggio a favore dei curdi, è stata bloccata nel paese. A suo carico erano state poi ritenute altre accuse, tra cui quella di partecipazione ad organizzazione terroristica. Numerose persone si erano mobilitate per la sua liberazione, che è arrivata poi inaspettata. Molchiel Assin non dovrà tornare per seguire il suo processo e potrà farsi rappresentare anche solo dall'avvocato. La sua detenzione aveva messo in luce il tema dei cittadini europei trattenuti dallo Stato turco, il cui numero esatto non è conosciuto, poiché la Turchia non è tenuta a informare gli altri stati nel caso in cui i cittadini abbiano la doppia nazionalità. Restiamo in Austria, dove il neonato governo tra conservatori e verdi mostra i primi punti di contrasto. Ci ha pensato ieri la ministra dell'integrazione Susanne Raab a ricordare uno dei temi non risolti, elencando le sue priorità nei primi 100 giorni di governo: la lotta all'Islam politico e il divieto di velo per le ragazze da estendere fino ai 14 anni. I due punti facevano già parte del programma del governo precedente, quello che vedeva i conservatori alleati con l'estrema destra, e non sono stati modificati. Portogallo, e il Presidente della Repubblica ha firmato, sia pure con molte riserve, la nuova legge sugli affitti che entra in vigore oggi e che prevede il contratto di locazione a vita. In sostanza, pagando una grossa cifra iniziale tra il 10 e il 20% del valore dell'immobile, gli inquilini hanno la certezza di restare fino alla morte. Tuttavia, in caso di mancato pagamento delle rate mensili, il contratto può essere risolto. Pensata per stabilizzare il mercato degli affitti caratterizzato dai continui sfratti, la legge presenta però numerose incongruenze e sembra poco in linea con il mercato immobiliare europeo. Trovate il link al testo di legge sul nostro sito. Irlanda, le morti sul lavoro, in particolare nei cantieri, continuano ad aumentare. Si tratta di numeri piccoli se paragonati a quelli italiani, ma per l'autorità per la salute e la sicurezza, che ieri ha diffuso i dati, rivelano un nuovo fenomeno. Non si muore più infatti nelle grandi imprese di costruzioni, ma nelle piccole a conduzione familiare o tra i lavoratori autonomi. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Vi saluto, vi lascio con i programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle nostre rubriche per chi ci ascolta online. Vi do appuntamento a domani con il notiziario orientale a cura di Serena Console. Da parte mia una buona giornata e una buona fine settimana. There are times Naturalmente, man mano che passano i giorni, diventa sempre più centrale la questione delle elezioni in Emilia-Romagna, non solo evidentemente per una tradizione consolidata di riformismo in questa regione, ma anche per i suoi riflessi in ambito nazionale. Allora, a questo punto sentiamo la prospettiva sindacale intervistando la FIUM dell'Emilia-Romagna, che presenta ai candidati in corso un documento con le proprie inchieste. Noi abbiamo raggiunto dunque il segretario regionale Samuele Lodi, sentiamo le sue parole. Abbiamo pensato un documento del genere perché ci sembrava importante in un appuntamento, diciamo così, di questo tipo, quindi estremamente importante per la vita dei cittadini, ma anche dei lavoratori della nostra regione, in qualche maniera prendere voce in questo contesto, e ribadendo sostanzialmente, perché premetto subito, lo dico subito, non c'è nessuna novità in quel documento, nel senso che abbiamo ribadito quelle che sono le nostre posizioni sugli aspetti del lavoro, ma anche sugli aspetti, diciamo così, della vita appunto dei cittadini una volta che si esce dai luoghi di lavoro. Quindi a partire dai temi più specifici del lavoro, quindi la necessità di affrontare questi segnali di crisi in maniera importante, quindi c'è bisogno di ammortizzatori sociali, c'è bisogno di tutela occupazionale, per poi passare al tema del salario. Oggi più che mai il tema dell'emergenza salariale per i lavoratori dipendenti in Italia, a partire dai lavoratori metalmeccanici, è un tema assolutamente dibattuto da tutti. Quindi insomma, sostanzialmente abbiamo voluto ribadire quali sono le nostre posizioni su aspetti fondamentali. Perché questo? Perché riteniamo che in un confronto che sempre la CGIL ma anche la FIUM appunto hanno avuto con le istituzioni, insomma, sia opportuno avere ben chiaro quali siano le nostre posizioni su determinati temi. Il governatore uscente Stefano Bonaccini, sì, che si candida, spesso sottolinea come l'Emilia-Romagna in realtà in Italia sia un po' la regione che va meglio e che abbia un PIL più alto, però nonostante questo ci sono delle questioni da affrontare. Questo sicuramente, nel senso che anche qui come FIUM non c'è nessuna difficoltà, anzi sarebbe ottuso da parte nostra riconoscere quali sono la situazione nella nostra regione, a partire dalle situazioni sul lavoro nel confronto con il panorama nazionale, quindi anche i risultati che ci sono, che in qualche maniera sono stati confermati, ma anche, diciamo così, risultati migliorati rispetto al passato. Detto questo, però, pensiamo che si possa e si debba anche, diciamo così, porsi degli obiettivi oltremodo importanti, in particolare sull'occupazione, sulla buona occupazione e anche sulla, diciamo così, sul contrasto alla disoccupazione, perché se è vero come è vero che il dato generale ci dice che la disoccupazione generale nella nostra regione è al di sotto del 5%, è altrettanto vero che la regione non è semplicemente Bologna o Reggio Emilia o Modena, ci sono territori che sono invece, da questo punto di vista, registrano dei risultati che sono sicuramente più negativi, quindi c'è bisogno anche di maggiore omogeneità nella ricerca e nell'obiettivo che ci si dà rispetto a questi aspetti, insomma. In questi ultimi 5 anni abbiamo visto diverse vertenze che riguardavano il settore metalmeccanico. Ci sono ancora delle crisi aperte? Diciamo che probabilmente rispetto agli anni che ci lasciamo alle spalle, il numero numericamente, la situazione delle crisi aperte è anche inferiore, però ci sono delle crisi ancora non risolte ormai da anni, e soprattutto ci sono segnali preoccupanti rispetto, per esempio, un 2020 che ci preoccupa molto, cioè le richieste per esempio di cassa integrazione ordinaria e straordinaria nella nostra regione nell'ambito del metalmeccanico stanno aumentando in maniera molto significativa. Quindi, a fronte del fatto che non abbiamo più quel bagaglio di ammortizzatori sociali che avevamo negli anni della grande crisi, perché Jobs Act ne ha cancellato una parte fondamentale, ecco, noi siamo fortemente preoccupati anche di questo aspetto, quindi quello della tutela occupazionale in questa fase. Avete pensato anche ad appuntamenti ufficiali, pubblici, in cui sottoporre il vostro documento ai candidati? Al momento non abbiamo ancora pensato. Chiaramente noi, a nostra volta, insomma, reciprocamente, siamo disponibili a qualsiasi confronto con le forze politiche. Ecco, l'ultima cosa che ci tengo a dire è che, come sempre, anche in questa occasione, e questo è l'altro motivo per il quale abbiamo deciso di produrre questo documento, la FIUM approccia, diciamo così, a questi appuntamenti con una duplice duplice, con una duplice, diciamo così, obiettivo. Quindi quello sicuramente di interessarsi anche della vita politica, in questo caso della nostra regione, perché lo riteniamo fondamentale parlare, confrontarci con i lavoratori, non solo degli aspetti del lavoro, ma anche degli aspetti, diciamo così, della vita e della situazione politica nel nostro paese, in questo caso della nostra regione. L'altro aspetto fondamentale che la FIOM difende, diciamo così, gelosamente, è la propria autonomia e indipendenza dalla politica, che non significa disinteressarsi della politica, tutt'altro, ma averlo con un approccio autonomo e indipendente che ci ha permesso in questi anni, mi permetto di dire, di avere anche un ruolo sostanzialmente, diciamo così, abbastanza autorevole anche per fare discussioni che vanno oltre i temi del lavoro. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Poveri partigiani portati in processione nei telegiornali, alla televisione, sopravvissuti un tempo alle fosse comuni, ma seppelliti in questo tempo dall'informazione. Sfilano il 25 aprile con le medaglie appese alle bandiere accanto alle mogli dei sottosegretari appena uscite dal parrucchiere. Dicono a mezza voce: viva la Costituzione, ma adesso è tardi, mi chiude la posta, devo prendere la pensione. Poveri deportati che mostrano la matricola alle telecamere, tra una pubblicità e l'altra il tetro tatuaggio. Questo sterminio vi è gentilmente offerto da una bibita gassata e da un famoso formaggio. Poveri nomi e cognomi dei caduti di tutte le guerre che stanno sempre sulla bocca degli onorevoli politici. Con tutti quei morti in bocca ci avranno sicuramente un alito pesante. La loro lingua è un campo santo dove resuscitano ogni tanto. Poveri morti di nasseria che forse ci credevano davvero. Chi muore, muore con onore, chi sopravvive, vive nel dolore. Povero Nicola Calipa, che gli hanno pure intitolato un'isola pedonale, sarà contenta la moglie che ha sposato una zona a traffico limitato. Poveri parenti degli eroi, che almeno per un giorno sono stati eroi anche loro nei funerali in Mondovisione, ma appena il giorno dopo erano morti anche loro, erano morti che ricordavano altri morti. Ma voi ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Nove e 30 minuti di questo 10 gennaio, venerdì, una giornata che inizia naturalmente con un dolce malinconico ricordo, perché il 6 gennaio sappiamo ci ha lasciato Giorgio Cavalli, bluesman di valore, grande chitarrista, con autodidatta, quindi nella più completa tradizione del blues. Ricordiamo le sue collaborazioni importanti da Guccini a Capossela, Iannacci, con cui mi disse aveva anche litigato, e altri e tanti altri protagonisti anche dello Strie delle Dame al tempo, e personaggio che per la musica e per un certo percorso era sempre, come dire, davvero un compagno di strada. Noi lo ricordiamo come la radio, quando il 29 agosto scorso, assieme alla Stefania De Salvador, parteciparono e costruirono questo reading. Lei leggeva, lui suonava il suo blues, ovviamente, su un testo di Tassinari sulla resistenza tradita. Questo è il Cavalli che vogliamo ricordare, così come vogliamo ricordarlo stamattina alle 10.30 a Camera Ardente al Bellaria, e noi questo ricordo in lettere con un suo blues. Questo ricordo davvero l'ho sentito. Veniamo invece alle pagine dei giornali, perché apriamo con la cronaca bolognese, ma che è anche chiaramente cronaca nazionale, rispetto all'ergastolo assegnato al nero dei NAR Cavallini. 40 anni dopo l'esplosione della stazione, lui nega tutto, dice il Carlino, io non c'entro, e quindi si allinea con la Mambro e il suo degno compare, per dire noi siamo stragisti, ma come noi non c'entriamo, anche se le prove le inchiodano. I familiari delle vittime, ora vogliamo i mandanti. Anche il Corriere di Bologna, oltre il Carlino, dice: Corriere, strage, ergastolo per l'ex NAR Cavallini, la sentenza della Corte d'Assise di Bologna dopo 6 ore e mezza di Camera di Consiglio, soddisfatti i pubblico ministeri. La difesa dice: non finisce qui, il sindaco Mero l'ha confermata, la matrice neofascista. E la naturalmente i giornali fanno una gara ad intervistare lo stragista, che dice: sono innocenti, mi rimane solo Dio, altre cose del genere. Ma è una persecuzione, lui dice: non mi farò trascinare dalle spirali di odio. Addirittura fa la parte del pacifista questo personaggio, ma devo dire che le indagini che hanno inchiodato questi sicari sono stati facilitati anche dalla digitalizzazione di materiale relativo alla strage che l'associazione parente delle vittime, familiare delle vittime, ha messo in atto, che ha aiutato i magistrati a procedere e aiuterà ancora, se si vuole andare avanti, per cercare non solo i sicari ma anche i mandanti in questo connubio, sappiamo, tra servizi segreti, in logge nascoste, estrema destra, malavita, quant'altro, dalla loggia dalla banda della Magliana fino alla loggia P2, insomma, passando per i depistaggi dei carabinieri. L'editoriale del Corriere con Gianluca Rotondi: resta nelle zone d'ombra sui mandanti finanziatori, il nesso con i vecchi processi o la svolta della procura generale, viene segnalata dal Corriere della Sera. Buongiorno Alfredo, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori, un bel buongiorno di sole. Ancora riprendiamo questa notizia da altre cronache, il resto del Carlino, dice: stazione di Bologna, la bomba, ergastolo dopo 40 anni all'ex NAR. Un'ampia istruttoria dove c'è spazio la perizia, gli esplosivi, eccetera eccetera, e oggi ha vinto la giustizia, ha commentato Paolo Bolognesi, dalla presidente dell'associazione vittime. Il prossimo passaggio, ha aggiunto anche l'avvocato Andrea Speranzoni, sarà un pezzo di verità importantissima su chi ha finanziato, favorito, coordinato e ottimizzato il risultato politico della strage. I mandanti al centro di un'inchiesta avvocata alla procura generale che sta per tirare le fila con alcuni indagati che porterebbero la P2 di Licio Gelli. Ancora questa notizia viene ripresa nelle pagine della Stampa, sempre su Cavallini, i familiari, primo passo per trovare i mandanti, e anche qui c'è una piccola intervista a Gilberto Cavallini, condannato all'ergastolo: io sono pentito di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto non mi posso pentire, concordo con Francesca Mambro, non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi a Bologna. E segnalo invece su Repubblica un bell'articolo di Benedetta Tobagi: la strage di Bologna, ora si aggiunge un pezzo di verità. Ad agosto saranno 40 anni dal feroce massacro alla stazione di Bologna, il 2020 si apre portando alle 85 vittime del paese un tassello di verità in più. La condanna di Gilberto Cavallini è importante perché indica la strada per approfondire, oltre corroborante, le sentenze annunciate. Prosegue, dice: in Italia lo Stato è un importante azionista, direttamente o indirettamente. Le imprese che vendono beni e servizi, no scusate, ho perso il segno. Benedetta Tobagi, appunto, l'articolo prosegue nelle pagine dei commenti, e Benedetta Tobagi ci dice: le indagini avevano imboccato subito una strada pericolosamente alla pista nera, poi convalidata da tutte le sentenze, inclusa quella di ieri. Nell'agosto dell'81 l'estrema destra rispose minacciando feroci estorsioni alla posa della targa che diceva strage fascista nella sala d'aspetto della stazione, trasformata in un luogo di memoria visitato ogni anno da migliaia di studenti grazie all'impegno profuso dall'assemblea regionale e dai familiari. La condanna al gasto di Cavallini è importante perché va a collaborare la pista nera. 40 anni fa, ancora ragazzi, evidentemente, gridammo subito il giorno dopo la strage di Stato, e la cosa viene corroborata, anche seppure molto lentamente, dalle indagini processuali. Speriamo che arrivino anche ai mandanti, per l'appunto. Ma sentiamo su questo intervento il parere del giornalista Antonella Beccaria, con cui abbiamo fatto un bilancio proprio di questo processo. Ascoltiamo l'intervista. Un processo che si è rivelato lunghissimo. Noi all'inizio di questo processo avevamo ipotizzato una durata di 18-24 mesi, insomma ci siamo andati vicini perché le udienze sono iniziate il 21 marzo del 2018, per cui fra un paio di mesi sarebbero stati 2 anni. E è stato un processo lunghissimo anche perché sono state tante le fasi di tutta l'istruttoria che è stata seguita. Sul banco dei testimoni in questi quasi 2 anni abbiamo rivisto tutti i protagonisti della stagione stagione che precedette l'esplosione alla stazione di Bologna. Sono arrivati Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, che sono stati condannati in via definitiva per la bomba a Bologna, e abbiamo visto anche i grandi pentiti di questa storia, che hanno raccontato una storia che porta la vicenda NAR molto lontana dal cosiddetto spontaneismo armato, che è questa linea politica che loro sostengono di avere sempre avuto e che li poneva in netta opposizione, in netto contrasto con le realtà delle versioni di estrema destra degli anni precedenti. In realtà dalle parole dei pentiti questo non emerge, tutto il contrario, emergono rapporti con Ordine Nuovo, cioè l'organizzazione di estrema destra che ha legato il suo nome alle altre grandi stragi della storia recente italiana, quella in particolare quella di Piazza Fontana, quella di Peteano e quella di Brescia del 1974. E l'ultimo di questi notissimi personaggi del mondo della destra neofascista degli anni 70 che è stato sentito lo scorso ottobre è Vincenzo Vinci Guerra, reo confesso ma non pentito per la strage di Peteano. E lui è tornato su un refrain che ha a lungo calcato in questi anni, che è stato anche riscontrato sia in sede giudiziaria che di ricostruzione storico-politica, che è quello di una stretta alleanza, di uno stretto connubio tra il mondo del terrorismo nero e gli apparati che una volta si chiamavano deviati dello Stato, insomma servizi segreti e strutture istituzionali che non hanno contribuito, anzi hanno inquinato le indagini. Cavallini, con le dichiarazioni spontanee di questa mattina, ha tenuto a dire che lui con certi ambienti non ha mai avuto a che fare, così come avevano già fatto Mambro, Fioravanti e Ciavardini, mai P2, mai servizi segreti, banda della Magliana solo per attività operative come per esempio l'approvvigionamento di armi. Questo, diciamo in estrema sintesi, è il quadro di questi due anni di processo. Noi non siamo solo poi alla vigilia di una sentenza importante, per quanto sarà una sentenza di primo grado, dobbiamo aspettarci un appello e poi un pronunciamento della Cassazione, ma è importante anche perché c'è il filone sui mandanti, per il quale nelle prossime settimane ci attendiamo delle novità, insomma capire cosa sta succedendo per quell'indagine che la Procura Generale di Bologna ha avvocato a sé ormai diverso tempo fa e sta per condurre appunto delle indagini che vadano oltre la manovalanza e i depistaggi. Questo è in sostanza, sì. Spero insomma che ci risentiremo presto per raccontare come evolve questa vicenda, perché da un punto di vista processuale e ricostruttivo è tutt'altro che chiusa. Ieri nella sua arringa difensiva conclusiva l'avvocato difensore di Cavallini ha sostenuto che sostanzialmente in questo processo non è emerso nulla di nuovo e per questo sostanzialmente chiedeva una soluzione. Ecco, questa è l'occasione per girare a te questa domanda: in questo processo sono emerse cose nuove che possono portare poi a possibili sviluppi? Si può dire che questo processo è partito andando a rivalutare elementi che effettivamente erano già nella disponibilità degli inquirenti. C'è stata una rilettura del ruolo di Cavallini, che sostanzialmente era uno dei leader dei NAR, tanto che un sinonimo del nome del gruppo era gruppo Fioravanti Cavallini. Nel corso del dibattimento sono venute fuori invece delle cose nuove, se vuoi sono anche abbastanza di dettaglio, però danno uno squarcio ulteriore di quello che era il mondo che poteva probabilmente gravitare intorno ai NAR. Per esempio la carrozzeria di Milano in cui viene ricoverata l'auto di Cavallini quando ormai è già latitante, per cui dopo la strage alla stazione di Bologna, attraverso una serie di legami di parentela, era la proprietà di questa carrozzeria era riconducibile a personaggi legati al noto servizio o anello, cioè un servizio segreto occulto, non istituzionalizzato, che nel secondo dopoguerra ha sostanzialmente da un lato servito alcune correnti della Democrazia Cristiana, iniziare dalla corrente primavera di Andreotti, e dall'altro si è occupato degli affari più sporchi di cui neanche i servizi segreti cosiddetti deviati potevano occuparsi, uno per tutti la fuga di Carter. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E apriamo la pagina di Avvenire che dice sperare la pace, perché sappiamo che la speranza è l'ultimo a morire, muoiono ben prima i civili delle guerre. Quindi andiamo sia in Iraq che in Libia. Cominciamo con l'Iraq e l'Iran, perché oggi il Gazzettino, giornale del Nord-Est, apre: senza nessun dubbio l'aereo colpito da un missile. Parliamo della tragica vicenda dell'aereo ucraino, il Boeing è precipitato al decollo da Teheran. I sospetti sono quelli che è stato un errore di lancia missili in quel giorno della rappresaglia mediatica iraniana, per un errore che sarebbe costato la vita a tante persone. Ma questa tesi, guarda caso, è una tesi tutta americana. Ora, vera o non vera, noi sappiamo che gli americani sono i nemici dell'Iran, e quindi la verità in una guerra è sempre la prima a morire. E allora, vero o non vero, chi lo sa? Noi, prima di stampare i titoli qui sicuri, ci penserei due volte, anche perché altri giornali più prudentemente parlano di indizi. E anche perché da una parte sono i 007 americani che dicono che questa cosa qua viene confermata dal presidente americano Donald Trump, e gli iraniani si rifiutano di dare la scatola nera all'americana Boeing con i tecnici americani per vedere se questa cosa è vera o non è vera. La cosa positiva è che l'Ucraina ha chiesto la scatola nera per le analisi. Certo, anche perché l'Ucraina chiaramente c'è un problema economico anche di rimborso alle vittime, è pesante, o di costi anche dell'aereo, quindi c'è un fatto economico oltre che umano molto pesante. Allora, l'unico che è fuori dal coro nelle conferme è Trudeau, presidente canadese, comunque sempre dello schieramento occidentale. Aereo caduto, Trudeau accusa, colpito da un missile iraniano. Trump si fermi sul nucleare, pronti a trattare. Questo è il Corriere della Sera. Navadadian, vicepresidente di Teheran, dice: noi siamo, se lui ritorna agli accordi che ha stracciato, noi ci siamo. Questa sarebbe la fase di disgelo che si riporta appunto un po' malinconicamente alla parola dell'Avvenire, sperare la pace, perché dicevo, qui Teheran, loro i primi a violare gli accordi, li rispettino e torniamo a trattare. Navdadeyan, vicepresidente della Repubblica Islamica, legata all'intesa sul nucleare, ma se colpiti rispondiamo. Trump dice nella sua conferenza stampa: volevano attaccarci a Baghdad, ma Trump all'ONU tende la mano, se prima ti dà un pugno nelle parti basse e poi dice no, facciamo la pace. Questa è la logica di Trump, che ricordiamo è stato condannato dall'ONU per violazione di diritti internazionali per l'omicidio del dirigente del generale iraniano Soleimani. Progettava di far esplodere la nostra ambasciata, e quindi sul processo di intenzioni, più che Torquemada al tempo, Trump lancia i missili. Trump ora parla di dialogo. Rouhani e l'Unione Europea, dite qualcosa. Da escalation reciproca da Reina e Rusa, ma Bruxelles non condanna Washington, perché siamo servi della NATO, va da sé. Chi invece, diceva ieri il manifesto, si tira un po' indietro, sono tutto il blocco degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita, perché il gioco del petrolio rischia di sfuggire in mano anche i grandi facitori di guerra, compresi quegli uomini di Riyadh. Nel frattempo, e quindi vediamo se questa remora degli affari potrà essere una remora anche per i droni di guerra. Pacifisti in piazza anche in Italia, spese a completa disposizione. Questa è l'accusa che fanno i pacifisti, naturalmente, alla subalternità italiana all'attacco americano. Mentre Afghanistan, perché c'è un filo non rosso di sangue che unisce i vari territori di guerra, l'Afghanistan è stretto tra Washington e il vicino iraniano. L'uccisione di Soleimani spariglia le carte, quindi i riflessi, i riverberi sono davvero molteplici e a volte anche imponderabili. Questo ce lo racconta Giuliano Battistone, acuto osservatore internazionale del manifesto, ed è caccia ai talebani filo Teheran. Quindi c'è una resa di conti tra sunniti e sciiti, l'ennesima, questa volta nella sunnita Afghanistan. I droni americani avrebbero colpito Mullah Najayah, con le conseguenze abituali sui civili, perché i civili naturalmente nella grande geopolitica non contano, muoiono ma non contano. Però Pelosi, secondo il giornale, Pelosi fa la guerra a Trump, no a Twitter, sì al Congresso. La speaker della Camera mette al voto una misura per limitare i poteri del Presidente, che sarebbe avvertire la Camera, il Parlamento, quando fa una guerra. Questo è per limitare i presidenti. Quindi non più il capriccio degli dèi, ma un presidente che in qualche modo, seppure se non lo per conoscenza, risponde a un Parlamento. Ma per il giornale è già abbastanza scandaloso questo limitare il capriccio degli dèi. Anche il Fatto Quotidiano, altro che Iran, sono i democratici americani a bombardare Trump. Errore di calcolo, l'ordine uccide nucleare solamente senza aver usato il Congresso, diventa un boomerang per il presidente. La saldatura, due storie diverse, per battere i tycoon alle elezioni 2020, il Kiev Gate e il Red Kill. Ricordiamo che il Kiev Gate, che secondo molti sta anche alla base dell'operazione militare del presidente capo in capo dell'America Trump per risalire nei consensi, per fuggire da questa morsa elettorale. Beh, ricordiamo che ci sarebbero tutte le intercettazioni, le prove delle telefonate tra Trump e Kiev. Nel frattempo, contropiano su questo fatto dell'iniziativa democratici in Parlamento americano, sottolinea il paradosso, un paradosso beh molto prevedibile peraltro, però Israele ha saputo prima dell'attacco contro Soleimani, il congresso nordamericano no. Questa dimostrazione appunto delle logiche, delle alleanze più che variabili peraltro che sono presenti in Medio Oriente. Sì, grazie. In effetti per gli esteri le prime pagine dei giornali le tengono appunto gli argomenti di Iraq, Iran e Libia, e nelle pagine di Repubblica, pagina 8, Pietro Del Re appunto fa un reportage, l'aereo abbattuto da un missile, da Trump a Trudeau accusano l'Iran, accuse appunto l'Iran che aveva sbagliato i calcoli e ha colpito per errore l'aereo ucraino. Ancora stesso tipo di notizia ce l'abbiamo nelle pagine del Carlino: l'aereo ucraino abbattuto dagli iraniani, gli 007 USA colpite dai missili, l'Iran rifiuta di consegnare le statue nere, sono state danneggiate. Lo stesso vale per la stampa sull'Iran, il Pentagono: rimuovere il leader non è sufficiente, l'impegno NATO in Iraq deve continuare, le milizie filo iraniane in Iraq sarà guerriglia contro gli Stati Uniti, prime crepe del fronte arabo sciita, al-Sadr frena e invita alla pazienza i Pasdaran. Eravamo pronti a un raid con migliaia di missili sugli americani, ma si sono fermati. Ancora sulla Libia, riprendiamo le notizie di Repubblica, Vincenzo Negro: Haftar rifiuta la tregua e attacca l'aeroporto di Tripoli. Il leader della Cirenaica respinge la proposta di Erdogan e Putin. Le sue milizie bombardano anche lo scalo di Misurata, il ministro degli esteri Di Maio è ad Algeri, l'embargo sulle armi dei paesi stranieri, a Roma arriva l'uomo forte di Serragi. Poi sono elencate le varie tappe dei vari accordi, il no di Haftar, il leader della Cirenaica ha respinto appunto la proposta di Turchia e Russia, all'indomani dell'incontro con Conte ha continuato a colpire Tripoli e Misurata. Ma ci sono ancora notizie che riguardano l'estero, uno è sulla Brexit, lo andiamo a prendere dalle pagine della Stampa. Alfonso Bianchi da Londra dice: bocciato un emendamento che avrebbe rinnovato il progetto dell'Erasmus, Londra frena, il governo annuncia negozieremo con Bruxelles. Ci sono le storie raccontate degli studenti che hanno aderito al progetto appunto dell'Erasmus, ragazzi dovranno ripiegare probabilmente sull'Irlanda. C'è chi ci rimette, c'è chi non è più in grado di andarsene all'estero. La stessa notizia la riprende appunto anche il Sole 24 Ore, che ci dice che c'è appunto questo problema della Brexit e dell'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra e questi danni indiretti agli studenti dell'Erasmus. Ma c'è anche un bel articolo di Riccardo Sorrentino che ci parla della controriforma di Macron e dello sciopero più lungo a partire dal 68 contro appunto la riforma di Macron e delle pensioni. È un bel articolo che fa il riferimento appunto su quello che sta accadendo in Francia e questo problema che non si risolve appunto nel paese a fianco a noi. Ed è curioso che anche il manifesto, come sulle 24 ore, dà lo stesso taglio alla Francia, lo sciopero più lungo dal 68, manda in titi il governo. 36esimo giorno di protesta in Francia, sindacati in piazza contro la riforma delle pensioni, dunque forse non abbiamo abbastanza forza per vincere, ma il governo non è abbastanza forza per schiacciarci. Questo è un delegato della CGT, che è la CGL, diciamo così, francese, della Peugeot di Poissy. Questo è dalla Francia alla Spagna. Madrid tiene Junqueras fuori dall'Europarlamento per ora, nonostante i sentenze dell'Unione Europea, la Madrid è disobbediente, tra virgolette. Ma riprendendo gli interventi già fatti anche sul fronte libico, torno al Corriere. Haftar dice no alla tregua, l'Italia cerca di recuperare. Sarraj invia il proprio ministro all'interno a Roma, ma soltanto per incontrare gli americani. Questo Haftar che dice no alla tregua concordata, c'è cioè una spartizione, una piccola ialta della Libia tra Putin ed Erdogan, viene così trattata dal Corriere in questo articolo di Francesco Battistini. La scelta del generale che snobba Erdogan e disobbedisce a Putin, perché appunto disobbedire a Putin può avere delle conseguenze, se di mezzo c'è il pipeline, ma dipende se è una disobbedienza concordata o meno. Comunque il presidente turco dice, Erdogan, il sultano, alcuni non capiscono che la sicurezza del nostro paese comincia ben al di là delle nostre frontiere. Questa è la premessa per ogni guerra, quando gli interessi nazionali vanno oltre le frontiere, ed è un tema caro storicamente agli americani, che purtroppo nel suo di Erdogan sentiamo rimbalzare anche molto da diversi nostri esponenti della politica. Ma è anche imbarazzante, perché devi comunque trattare con gente impresentabile, perché Di Maio va in Algeria in un momento in cui l'Algeria da un anno è sconvolta dalle manifestazioni popolari contro un governo definito illegittimo, di vecchi bonzi che non si spostano dal potere e dalla corruzione. E quindi così come quando va in Egitto a parlare con personaggi come il dittatore egiziano, insomma, l'area è quella che ben contraddice il tempo delle primavere arabe e tutt'altro. E poi c'è il ritorno sempre sul luogo del delitto, perché leggo Libia, Minniti come inviato per blindare pure il governo, forse per i buoni uffici con i con gli uomini trafficanti di Minniti al tempo, no? Ricordiamo l'accordo di Minniti sui migranti, vertice 3, ieri in premier ha visto Luigi Di Maio, poi sentito il titolare della difesa Guerini, ex ministro di DM favorito nel ruolo di mediatore della crisi, un ruolo totalmente tutto legato alla politica di Minniti al tempo. Il fronte iraniano, la telefonata di Chigi al presidente Rouhani al centro di sicurezza dei militari italiani, c'è un modo sicurissimo per i militari italiani di tirarli in Italia, questo sarebbe, non li sparerebbe più a nessun bunker o nessun missile. Questo è quello che arriva dalla Libia. Poi ci scusate i nostri lettori, quei nostri ascoltatori, scusate, perché noi non abbiamo seguito per nulla la vicenda dei popolari, dei quotidiani popolari inglesi su The Sun, The Mirror, eccetera, sulla famiglia reale inglese e i suoi travagli. Per gli appassionati di The Crown e un po' per deontologia in professionali confessiamo, perché non ce ne frega niente. Però detto questo, sempre per onore alla professione, Meghan and Company, sua lesa maestà britannica terremotate dalle ragazzacce. Chi gode è la fortunata Netflix, appunto per The Crown, che adesso è un rilancio, vanno a fare una nuova serie su questi ultimi due che lasciano il palazzo per andare a vivere in Canada. Questo mi sembra che sia così, di aver letto tra le altre cose en passant. La trama è tutti i tabloid, un delirio di gossip e veleni, di rivelazioni e di trologia, roba da Grande Fratello, di sangue blu. Chuck si gira. E allora la cattiveria del Fatto Quotidiano dice che Meghan Markle annuncia: lascio Buckingham Palace, io però prima di partire darei una controllatina ai freni, ricordando Lady Diana. Esatto. E questo ci riporta dunque alle tristezze dei reali, che sono sempre in testa ai nostri pensieri. E allora andiamo a Iannacci, che condivide con noi queste preoccupazioni. Ho visto un re. Se la discuse? Ho visto un re. Ah, beh, sì, beh. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh. E l'imperatore l'amore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave. Ho visto un vescovo. Se la riscuse? Ho visto un vescovo. Ave, sì, beh, ave. Anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì. E il cardinale che gli ha portato via un'abbazia. Oh, poi Cristo! 32 che lui cena. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì. Ho visto un ricco. Se la riscuse? Ho visto un ricco. Un show. Sì, ave, sì, beh, il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava diretta al pin, sì che tutto l'annacquava. Povero tapin. E povero anche il pin. Sì, beh, ave, sì, beh, anche sì. Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena. Povero tapì. E povero anche il vin. Sì, beh, a beh, sì, chitta, sì, dai, dai, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Visto un vilano. Sai, scusa? Un contadino. Ave, sì, beh, ave, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Ah, beh, sì, beh. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Poi il puscel. Nel senso del maiale. Sì, beh. Ah, beh, sì. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava. Ma Salemma? No. Il fatto è che noi viran. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E dopo anche i ricchi piangono, veniamo invece alle questioni di governo, i tanti nodi della maggioranza irrisolta, andiamolo a vedere in sequenza, in ordine sparso, via le firme del referendum, sgarbetto forzista Salvini, e la Lega va a mettere i suoi uomini a firmare per il taglio dei deputati, che sembra quasi impopolare, finché c'era un altro che c'è un lavoro sporco per lei, adesso invece quattro voletti vicino a Mara Carfagna ritirano il sostegno sul quesito, questo fa pensare che Mara Carfagna si avvicina un'ipotesi entrata in maggioranza, questo naturalmente essendo in politologia astratta dei nostri dietroscenisti ad oltranza. Non vogliono essere loro a fare il loro lavoro sporco per conto della Lega, per l'appunto, racconta il Fatto Quotidiano. A proposito di lavoro sporco, abbiamo chiesto l'invio sul caso Gregoretti. La battaglia sul voto in giunta e sulla campagna elettorale tra l'ex ministro e Zingaretti, cioè andrebbe dopo il voto proprio in Emilia Romagna, ma secondo il caso Gregoretti e secondo il Fatto Quotidiano è Queen Elizabeth, per rimanere in ambito di reali, questa volta però è la Elisabetta Casellati, presidente del Senato. Queen Elizabeth può fare San Matteo martire, la maggioranza vuole il rinvio dopo l'Emilia Romagna, la decisione nelle mani della Casellati. Il documento Gasparri contro l'autorizzazione, adesso insiste persino più dell'ex ministro sul ruolo di Conte, questo è quello che arriva dal Fatto Quotidiano e sempre in ordine sparso andiamo, taglio dei seggi frenata sul referendum, questo è, si sfilano 4 senatori di Forza Italia, manca le firme necessarie, un solito colpo di scena che se è poco possibile è ancora più illeggibile e impresentabile la politica italiana, ma in questo la destra è una maestra, la sinistra è solo una debole copia, e maestra, e poi ne trae i frutti a differenza del centro-sinistra. E poi il sistema elettorale, questa volta passa a manifesto con barriere al 5%, la legge è poco tedesca, la tribuna è a ostacoli, quindi anche la presidente di tribuna verrebbe contestata. Nel frattempo c'è anche l'altro tema della prescrizione, che vedrebbe questo tentativo di mediazione del PD per cercare i tempi giusti di processo per farla combinare con la sacrosanta abolizione della prescrizione come arma per rimandare a CND e scappare ogni inchiesta, che mi sembra un'arma abbastanza consolidata, in particolare chi ha le spalle larghe per potersi garantire un collegio di difesa molto attrezzato. Allora, arrivato dal Fatto Quotidiano a suo tempo delle proposte da Vigo per cercare di mettere insieme una composizione delle parti nel centro-sinistra, si schiera contro subito l'analisi di Luca Fazzo del Giornale, il folle manifesto da Vigo, vietato difendersi dai pubblico ministeri, così naturalmente da trivio, da bar, forse da latrina, da stazione, il tipo di argomentazione. La toga del CSM, l'imputato che fa appello va rovinato, non è così la tag, non ha detto questo, perché da Vigo non direbbe una cosa del genere neanche, anche perché la messa tra virgolette, di solito le virgolette va messa le parole testuali, non le interpretazioni, ma lasciamo perdere la deontologia giornalistica che come dire, è stata buttata da tempo alle ortiche, ma vuole colpire anche gli avvocati, questo è, mani legate, corrono filtri le impugnazioni, stop alle dilatorie pretestuose, a quelle dilatorie di pretestuoso, guai a ribellarsi, va abolita la riforma actio in veius, se ti condannano nei tuoi appelli pena più alta, come per esempio anche in Francia, per dire, un paese che non mi sembra sia il colmo della barbarie. Ma fa eco subito del Giornale il riformista di Sansonetti, come sempre dalla parte dei processati, a prescindere, tanto più se sono ricchi e in odore di mafia, questo usatemi la cattiveria, ma più spesso succede questo. Il riformista, idea da Vigo per salvare la giustizia, aboliamo la difesa, anche questa è una corretta interpretazione del problema, guardando con serietà i pro e i contro. Sì, Repubblica invece sulle pagine della politica squarcia il velo del lavoro e c'è un reportage che ci dice che il Piemonte è in crisi e sono in pericolo 5.000 posti dopo la Pernigotti e l'Embraco, ora sono in difficoltà anche le aziende dell'indotto dell'auto che sta soffrendo il passaggio all'elettrico, e le aziende sono appunto la Male, la società che produce pistoni per auto ha annunciato la chiusura di 2 stabilimenti, la Holisten System, sono circa 400 dipendenti piemontesi dell'azienda del settore delle telecomunicazioni che sono in crisi e rischiano il posto di lavoro, l'ex Embragro di Riva rilevata dal gruppo Ventures lasciata a se stessa dopo il disimpegno della proprietà, e la Comital 130 posti di lavoro, una cordata cinese ha offerto di rilevare solo la metà dei posti, e c'è la denuncia di Tommaso Nannicini del PD e dice: dalla politica abbiamo solo ipocrisia indignata. Nannicini, che è stato anche sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Renzi, allarga la sua denuncia a un ragionamento politico più generale che coinvolge l'intera maggioranza di governo, sono molto preoccupato, sta dimostrando di non funzionare sulle cose concrete, perché anche l'impasse su certe scelte come la commissione parlamentare e le nomine dell'Agenzia delle Entrate e dell'Authority è determinata per la vita delle persone, le persone in carne e ossa con le quali facciamo fatica a dialogare, sinistra inclusa. E c'è Valentina Conte che ci pubblica una nuova tabella dell'Istat che ci dice che c'è un nuovo record di occupati, ma la spinta viene purtroppo dai part-time, mai così tanti al lavoro dal novembre scorso, 3.486.000. Analizzando i dati però si scopre che si tratta per lo più di impieghi poco produttivi, male remunerati e spesso a tempo parziale involontario, soprattutto per quello che riguarda le donne. E c'è un caso riportato, morti sul lavoro, la commissione del Senato si affonda. In Italia sappiamo che ogni 8 ore una persona perde la vita sul lavoro, quando succede ce la caviamo con un'ipotetica indignazione di facciata dicendo che non sono numeri da paese civile, poi tutto torna nel dimenticatoio mentre i lavoratori continuano a morire. Tommaso Nannicini ancora è amareggiato e allarmato, la prima cosa che ha fatto nel 2018, appena eletto senatore della Repubblica, è stato depositare a Palazzo Madama la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta di sicurezza del lavoro e sfruttamento, proposta trascurata per mesi dalla maggioranza, ma improvvisamente rispolverata quando ritenuta utile nel gioco degli equilibri politici delle presidenze di commissione, infine abbandonata nuovamente. Ancora che si parla di politica sulle pagine della Stampa, si parla del referendum elettorale, il pressing dei partiti sui giudici della Consulta. Segnatevi questa data, il 15 gennaio sarà il giorno chiave per le sorti della Repubblica, mette sull'avviso Giancarlo Giorgetti. Mercoledì la Corte Costituzionale si pronuncerà sul referendum elettorale della Lega e lo stratega del Carroccio prevede un verdetto spartiacque. Caso Gregoretti, ancora, come diceva Alfredo, chiesto il rinvio del voto, adesso la parola passa alla Casellati. Ancora una notizia che andiamo a prendere dalla Repubblica ed è riguarda le sardine, un articolo di Concita De Gregorio, parla di Parma, la bella Parma tra Lega e le sardine. Al centro di Parma, nel centro di Parma, di martedì pomeriggio entra al bar una giovane donna avvolta nel visone e parla appunto di sardine. Di sardine si parla ancora nelle pagine interne. Parma, denominata l'Ohio dell'Emilia, che anticipa chi vince, divisa tra Lega e sardine. La sinistra non governa Parma dal 98, ma Pizzarotti sta con Bonaccini. Bologna, Ravenna, Modena e Reggio sono ancora rosse, ma tutto il resto sta andando a destra e c'è l'ultimo sondaggio di SGV che ci annuncia che il divario fra i due candidati delle elezioni regionali dell'Emilia è di pochissimi punti, un paio di punti, e questa cosa si vedrà appunto nel giorno delle votazioni. Allora c'è un dato che potrebbe essere buono per il governo: giovani donne, la spinta per la nuova occupazione, il tasso sale al 59,4%, siamo nel Corriere Economia, il livello più alto dal 77, 41.000 posti di lavoro in più. Ma che tipo di lavoro? E allora che tipo di lavoro è il solito punto dolente messo in segnalazione dal Manifesto. A novembre record di occupati senza qualità, quindi il precariato aumenta. Dati Istat, Conte e Catalfo brindano, la CGIL è critica, questo dice il Manifesto. Sul versante poi della scuola, allarme supplenti sul nuovo anno scolastico, fermi due concorsi da 50.000 cattedre, i bandi annunciati per la prima volta nel 2018. Poi naturalmente è chiaro, e torno al discorso che aveva già segnalato in versione Brexit Andrea, torna al discorso dello studio su questa vendetta proprio simbolica, perché non certo non c'entra né economia né altro, quello che è chiamato il muro di Londra dell'apertura del Manifesto. La Camera dei Comuni decreta lo stop al programma Erasmus, una vendetta di basso lignaggio che vuol colpire proprio il concetto di fratellanza europea. Ma andiamo allora al tema che invece segnala Virginio Di Biagi dal Fatto Quotidiano: soltanto il welfare argina la povertà. Questa polemica sulla reddito di cittadinanza, il welfare è chiaro, l'assistenza argina la povertà, e la parola che viene sottolineata è arginare, non risolvere, perché a volte si dice questo non risolve, infatti la povertà si risolve con il lavoro. Nel frattempo ci vuole il sussidio per i disoccupati, chiamatelo come volete, ma tanto più in un mondo dove si produce sempre in meno è chiaro che è sempre più prioritaria questa tematica. Ma 5 Stelle nel caos, questo è il giornale, ma non solo il giornale. Grillini in rivolta, ci teniamo i soldi, i parlamentari chiedono meno Di Maio e meno prelievi. È bello questo fatto anche di unire i soldi che si prendono alla politica, e direi che c'è una triste continuità e tradizione della politica italiana anche che attraversa oggi 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano apre con un esclusivo: Di Maio vicino a lasciare la guida dei 5 Stelle, mossa già forse già prima delle regionali. Cambia tutto l'idea di un vertice collegiale con gli altri big 5 Stelle, i timori di Grillo e Casaleggio sul direttorio bis, ma il leader nega di questo suo messo in primus inter pares, direbbe Barbarossa. Ma poi abbiamo parlato dell'Emilia Romagna, Salvini chiude la campagna Bibbiano, questo è la destra, anche Prodi in campo invece per la campagna del governatore di centrosinistra, vincerà Bonaccini, dice Prodi, che poi nell'intervista dice io non sarò assolutamente candidato al prossimo Presidente della Repubblica, prima perché non mi interessa, poi anche perché i famosi 100 ci sono ancora, quelli che lo fucilarono tra virgolette politicamente nelle ultime elezioni, quando venne eletto poi Giorgio Napolitano e tutte le conseguenze che ne abbiamo avuto. Ma a proposito di destra e di mani pulite, il regno dei Di Silvio, a Latina il pentito del clan, i nostri voti di Lega e Fratelli d'Italia. Agostino Riccardo canta: controllavamo le urne, Rampelli fu minacciato per mandare alla Camera il nostro uomo. Questo è sul bol, proprio l'Emilia Romagna. Si ricorda che bombardare su Bibiano costa 6.500 euro, la campagna Facebook della Borgonzoni da mostrare solo alla facile tra 13 e 17 anni. Poi è il caso di dire giù le mani non dei bambini ma dagli adolescenti in questo caso. E questo è il, mentre possiamo passare allora alle questioni ambientali. Sì, sulle questioni ambientali apriamo con la fotonotizia della prima pagina del Sole 24 Ore, che dice che c'è un'emergenza ambiente, la Campania è senza commissario alle bonifiche, e c'è una bruttissima foto dove ci sono pompieri che spengono incendi appunto nella terra dei fuochi. È dal 17 dicembre scorso che in Campania nessuno si occupa più delle bonifiche, proprio nella regione che deve fare fronte alle discariche illegali della terra dei fuochi. Dopo numerose proroghe, il commissario di governo Mario De Biase ha dovuto abbandonare il campo. Ora Regione Campania e Ministero dell'Ambiente si accusano a vicenda di non aver evitato la vacatio. La notizia viene ripresa nelle pagine interne e dice: le discariche dei casalesi, lo Stato lascia via il commissario e stoppa le bonifiche. Mario De Biase da metà dicembre appunto non è più in carica. Ex commissario appunto Mario De Biase bonifiche ambientali nella regione Campania. E ancora un'altra notizia riguarda il trasporto pubblico: nelle città scatta la rivoluzione ecologica. Il caso di Torino e Bologna, le città, anche se in ordine sparso, si stanno muovendo. Attualmente il parco autobus circolante in prevalenza ad alimentazione diesel, la transizione energetica in atto sta virando verso il gas oppure verso l'elettrico. Da qualche giorno Torino ha messo in circolazione 40 nuovi autobus, e la stessa cosa avviene anche su Tiper, sempre Bologna. Tiper e Scania hanno inaugurato l'era dell'autobus interurbano a gas naturale liquefatto, il GNL. Nelle scorse settimane è stata presentata la consegna di 15 Scania Interlink alimentati a metano liquido. La gara di Tiper rappresenta una prima assoluta in Europa. Poi c'è il caso di Milano, dove la TM porterà entro il 2030 a una flotta interamente composta di autobus elettrici, e anche la svolta di Cremona, anche per il trasporto urbano gestito da Arriva, è prevista la graduale introduzione di un servizio di autobus elettrici, due bus elettrici di ultimissima generazione realizzati da Alfa Bus. Ancora altre notizie che riguardano l'ambiente, andiamo a recuperare dalle pagine di Repubblica, dove c'è un bel articolo di Antonio Muñoz Molina che ci parla di Greta. Pratica l'ambientalismo con azioni concrete e ci richiama alla nuova responsabilità. Per questo la ragazza svedese suscita ostilità. La ragione principale per cui Greta Thunberg suscita tanta ostilità non è quella che gli dice, ma in quello che fa. In suo modo semplice e tenace, attraversando l'Atlantico in barca a velo, arrivando a Madrid da Lisbona dopo un viaggio lento e scomodo, quasi quanto una traversata in mare, Greta Thunberg ci butta in faccia letteralmente il nostro grado di responsabilità personale di fronte alle crisi climatiche che è già in corso e che ci dà l'esempio di un attivismo fatto al tempo stesso di attività politica, di cambiamenti concreti nella nostra vita quotidiana. Le parole non costano nulla, le cause nobili sono più sopportabili quando richiedono solo la firma di un manifesto o una dichiarazione pubblica. Le persone della mia generazione si sono educate politicamente in un mondo di numerose astrazioni che non avevano bisogno di essere tradotte in qualcosa di concreto nella nostra attività quotidiana. E quindi un esempio di dissenso radicale contro l'inevitabilità di un mondo guidato da personaggi tossici che aspirano a godere di potere e ricchezza è questo l'esempio appunto di Greta Thunberg. E ancora un'altra notizia che riguarda l'Australia: per sconfiggere appunto il mostro, il paese risponde come se affrontasse un conflitto e gli incendi avanzano. Se avete un altro posto dove andare, andateci. E pare che appunto gli incendi australiani diventino anche un fatto politico, visto che il premier, mentre iniziavano a bruciare le praterie dell'Australia, se n'era andato in vacanza. Qualche anno fa, quando c'era l'anno nuovo, si celebrava il primo nato dell'anno con immagini, interviste ai genitori. Oggi invece il primo estinto del 2020. Il pesce spatola cinese, lungo fino a 7 metri, viveva nel fiume Yangtze. Gli esperti non se ne vedono dal 2003, lo consideriamo scomparso. L'allarme di scienziati per molte specie di acqua dolce minacciate. E poi c'è l'elenco delle specie estinte del 2019, che c'è il pappagallo, un uccellino, un pesce e quant'altro. E quello a rischio c'è il pangolino delle Filippine, la giraffa dell'Africa occidentale ed altre specie. Questo è l'andamento che viviamo. Parlavi comunque dell'Australia, torna l'argomento anche sul Corriere. I roghi dell'Australia visti dagli italiani. Resta alto l'allarme, incendi, 80.000 chilometri quadrati sono già andati in fumo. Uccise 26 persone e 1 miliardo di animali. Finalmente ci si ricorda la strage, l'orrore degli animali che periscono in questi incendi, oltre che naturalmente l'orrore delle persone che ci lasciano la pelle. Monica Castamani Bona, vista dall'Italia, dunque chiusa in casa, sembra di vivere un film. Sono gli italiani che stanno in Australia. Roberto Gnicchi Ruscone, volontario con i pompieri, corro ovunque. Naglia Fonteddu, cielo grigio, pioggia di cenere, tutto è distrutto. Queste sono immagini che non sono quei film che da Iri sulla fine del mondo, ma è realtà di cronaca dell'Australia. Su questa realtà di cronaca dell'Australia interveniamo allora con le parole di Marinella Correggia, giornalista, attivista e ecopacifista. Sentiamo la sua testimonianza. E purtroppo è sempre difficile perché la stagione secca continua e le temperature sono alte e forti i venti. C'è stato un po' un periodo di requie qualche giorno perché qualche pioggia, un po' di piogge sono scese su una parte dei due stati più interessati, Nuovo Galles del Sud e lo stato di Victoria, i più interessati agli incendi che ardono da 4 mesi. Ma gli addetti ai servizi antincendi sono pessimisti perché dicono che da venerdì, cioè da dopodomani, la situazione meteorologica peggiorerà, nel senso che tornerà a essere favorevole al propagarsi delle fiamme, e temono che si saldino due fronti di fuoco e sarebbe una catastrofe, e quindi stanno cercando di operare in questo senso, oltre a portare soccorso alle persone. Ormai gli evacuati sono moltissimi. Certo, ecco, tra l'altro deve ancora arrivare la stagione peggiore in Australia, quindi c'è da immaginare, insomma, che appunto che il peggio deve ancora arrivare. Eh sì, come scriveva un professore sul Guardian ieri, lui chiama gli incendi di quest'anno fuoco eterno, perché così tanto non sono mai durati. Poi è vero che l'Australia è predisposta a questo fenomeno, perché c'è la bush, c'è questa savana e ci sono alte temperature, la siccità, tutti i fenomeni aggravati dai cambiamenti climatici, che diciamo il governo australiano non è tanto disposto a rallentare, e quindi questo è il problema politico poi che si pone e che viene sollevato da varie parti. Ecco, il governo australiano come si sta ponendo di fronte a questa catastrofe? Il governo australiano è collaterale a certi negazionisti climatici ancora, e in ogni caso è fortemente dipendente dai combustibili fossili, esportatore di carbone, e non ha intenzione di cambiare la matrice energetica, quindi continua a fare l'Australia, continua a fare la sua parte in modo molto rilevante in questo caos climatico. È intervenuto un ex premier australiano, però laburista, che ha detto: quando noi ci siamo attivati, abbiamo imposto una legge secondo la quale entro il 2020 si sarebbe dovuti passare dal 4% al 20% di rinnovabili, che non è neanche tantissimo, e i conservatori hanno gridato alla rovina dell'economia, che invece non c'è stata. Per cui ecco, questo ex primo ministro è molto critico, e da varie parti si levano critico. Quindi si spera che, come dovrebbe essere logico, questa catastrofe con persone morte, attività e case distrutte, gente che ha perso tutto e moltissimi animali uccisi, arsi vivi, si spera che serva e che faccia pensare, anche se molti ecosistemi sono stati distrutti, perché c'è, a parte la savana, c'è una parte di foresta che è un ecosistema complicato e delicato e che è andato in fumo e ci metterà molto tempo a ristabilirsi. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E dalla tragedia alla farsa, così come la trattano molti giornali, la questione dell'inquinamento, per esempio, trovo dal Corriere, a firma di Sergio Arari, questo appello: contro lo smog, una giornata senza sigarette. Quindi non è il solito appello che il fumo fa male, cosa vera, ma insomma uno dovrebbe essere informato e fare le scelte sul suo corpo che preferisce. No, dice che il cambio della mobilità e l'uso oculato dei riscaldamenti sono alcuni esempi di alcune individuali che hanno ricadute importanti. Questo, ok. Poi, inoltre, sebbene gran parte dell'inquinamento ci concede a Rari, dipende dal traffico automobilistico, dalla produzione agricola e industriale e dai riscaldamenti, una quota, anche se molto minore, deriva dal fumo di sigaretta, la cui azione dannosa sui polmoni viene moltiplicata dallo smog, e se si fuma negli abitacoli delle auto e concentrazioni di particolari raggiungono livelli altissimi, cosa che speriamo perfettamente anche prima, ma non mi sembra che aggiunga nulla di più rispetto alle campagne molto spesso non di salute ma proibizionistiche sull'argomento. Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi, perché mi piaci molto di più. Anche se evidentemente non sono un vero uomo, perché non ho mai fumato e non mi piaceva neanche più di tanto sentire quando baciava una ragazza il sapore di fumo, a quel punto pensavo già ad altro, però detto questo mi ho sempre avuto un atteggiamento di istintiva ribellione verso i proibizionisti, questo quindi è curioso che mi debba schierare dalla parte dei fumatori. Detto questo, Iran, torno sull'argomento, Boeing non colpito da un missile, vediamo cosa risponde l'Iran alle accuse che oggi la giornale sicura, perché diceva Trump, se dice Trump deve essere vero per forza. Il numero uno dell'aviazione civile iraniana che ha dichiarato che il Boeing della Ukraine International Airlines non è stato colpito da un missile, e vabbè, nello schianto avvenuto vicino a Teheran, si ricorda dal flash di agenzie che è arrivato questa mattina in redazione, 176 persone sono rimaste uccise. Secondo l'agenzia IRNA, cioè quell'agenzia iraniana, le autorità iraniane hanno inviato la Boeing e inquirenti dai Kiev e hanno invitato la Boeing a Kiev a partecipare all'inchiesta. L'Iran accoglierà anche esperti di alcuni paesi i cui cittadini sono deceduti all'interno dello schianto. Quindi direi che c'è un'operazione trasparente, vediamo se sarà anche questa puffa propaganda quella di Trump o se c'è qualcosa di più. Andando invece proprio nell'ultima servizia, forse si collega ancora ai treni delle grandi opere dell'ambiente o della mobilità, vedete voi, la pagina del Secolo XIX, giornale ligure molto interessato alla viabilità, dice: autostrade, 200 gallerie fuori legge. E quindi è un dato terrificante. Ma poi sulla mobilità si legge: il test sull'Aurelia, 10 ore per fare 300 km. Questo è la media, è 30 km orari. Questo è tanti soldi guadagnati dai gestori, tanto strade costruite maluccio. E la velocità 30 km all'ora. Sì, la stessa notizia è ripresa un po' da altri punti di vista, sia sulla stampa che su Repubblica, ma siamo alle battute finali di questa rassegna stampa alle 10:27 minuti primi, e c'è un'indagine shock della Procura di Genova, appunto, che riprende e dice che ci sono 200 gallerie autostradali a rischio, oltre 100 sono gestite direttamente da autostrade. Sulla 10, all'altezza di Arenzano, si stacca ancora un'altra protezione dei tunnel. E c'è anche l'allarme del Consiglio dei Lavori Pubblici: in tutta Italia tunnel fuori norma andavano messi a posto mesi fa, e torna la polemica sulle autostrade. Il Movimento 5 Stelle dice che occorre revocare la concessione, non serve a niente a bloccare le tariffe autostradali. Conte e il PD, per evitarla si abbassano i pedaggi, ma i 5 Stelle dicono che non è possibile. Ringraziamo l'autostrada, perché adesso quando viaggiamo sulla qualche A14, 15, 16 su un viadotto nel tunnel abbiamo quel pizzico di brivido che rende più eccitante il viaggio. Con questo noi ci salutiamo, ciao, a risentirci. Ciao, a risentirci.